Qui toi era et mata moa moia te voa mo carite mata me qui toi era et mata moa moia te voa mo carite mata e amara era mato vere Kauri uri mai tau aroena Kitangi atu mato ia koe Amara iero mato uere Kauri uri mai tau aroena Kitangi atu mato ia koe E kimi korua Ai poki o te urmanu E mora vai korua mohere here E kimi korua Ai poki o te urmanu E mora vai korua mohere here Te amara iero mato uere Kitangi atu mato ia koe E angaro iero mato uere Kauri uri mai tau aroena Kitangi atu mato ia koe Togera uere viuma iera Kitoku mai Kana kutake o anau Togera uere viu mai era Kitoku mai Kana kutake o anau Ke angara iero mato uere Kahuri uri mai tau aroena Kitangi atu mato ia koe E angara iero mato uere Kauri uri mai tau aroena Kitangi atu mato ia koe